Abbiamo creato questa piattaforma che fa da tramite tra chi cerca appunto innovazione, chi la può offrire, nel nostro caso una community di 50.000 creativi distribuita in tutto il mondo, formata da designer, architetti, ingegneri, che sviluppano e realizzano progetti e prodotti per aziende legate al settore del manifatturiero. Come funziona? Vengono lanciati dei contest dalle aziende per la creazione dei prodotti? Esattamente, con l'azienda cerchiamo di identificare quello che è un brief che poi viene lanciato all'interno della community in tempi che possono andare da 45 a 60 giorni. La community si attiva e carica delle soluzioni innovative per soddisfare i bisogni delle aziende. Ci rivolgiamo in prevalenza ad aziende che producono a livello industriale prodotti consumer, per cui abbiamo casi che possono riguardare sviluppo di occhiali, contenitori per la papa dei bambini, oggetti di design per la casa, chiavi per auto. Diciamo che i settori sono i più disparati, adesso stiamo offrendo anche un servizio alle aziende contoterziste, una possibilità di sperimentare nuovi settori attraverso il design, per cui aziende che hanno un know-how specifico su tecnologie particolari, grazie all'aiuto della nostra community, trovano settori dove calare questo saper fare e lanciare nuovi prodotti. A chi servite di più? Alle piccole e medie aziende che magari non hanno dipartimenti interni per l'innovazione prodotto, per lo studio dei prodotti, o alle grandi aziende in cerca di energia e idee nuove? In questa fase devo dire che copriamo un po' entrambe le esigenze, perché abbiamo le grandi aziende che sono già strutturate con all'interno centro di ricerca e sviluppo, che però vedono nel crowdsourcing una potenzialità enorme perché istantaneamente riescono ad arrivare a, nel nostro caso, 50.000 teste diverse. E allo stesso tempo, ovviamente, alle piccole aziende che non sono strutturate internamente con centri di ricerca, diamo sostanzialmente una potenzialità che è quella di avere a costi molto contenuti un centro di ricerca e sviluppo globale. Il crowdsourcing è sicuramente uno strumento molto importante da sfruttare per le aziende, perché riesce ad avere un feedback dal potenziale consumatore finale ancora prima di fare un investimento di produzione. La fase di sviluppo prodotto ha un doppio valore, che è sia la parte appunto creativa, ma anche una ricerca di mercato prima ancora di pensare a come produrre, a cosa produrre. Bikeology. Torna il Ciclo Pride Day, la grande pedalata collettiva in programma a Milano il 9 e 10 maggio prossimi. Ci facciamo raccontare tutto da Ercole Gianmarco, che è il presidente di Ciclo Pride ed è anche l'autore di Andare in bici, le ragioni del pedalare. Buon pomeriggio, Ercole. E buon pomeriggio. Allora, che cosa succederà il 9 e il 10 maggio? Si parte da Piazza del Cannone, sabato 9 maggio, pedalata notturna insieme a CBM Italia, un'associazione no profit che cura i problemi di vista dei bambini in Africa. Sarà una pedalata di 6 chilometri, aperta a tutti, e le scuole di Milano sono particolarmente invitate a partecipare, perché il percorso è tutto in sicurezza. Il giorno dopo, sempre da Piazza Cannone, parte invece l'ormai tradizionale pedalata collettiva. Ci aspettiamo quasi 30.000 persone, ma potrebbero essere anche di più. Una pedalata che si snoda per 20 chilometri circa dal centro di Milano per raggiungere i nuovi spazi della Milano dell'Expo e ritorno. E anche quella è una passeggiata aperta a tutta la famiglia. Voi lanciate un messaggio ben preciso. Dite: favorire l'uso della bicicletta non è favorire i ciclisti. Ecco, questo è un punto molto importante per noi. La bicicletta aiuta i pedoni, aiuta gli automobilisti, aiuta tutta Milano e tutte le città ad essere più sicure e più sane. Quindi la nostra non vuole essere una celebrazione dei ciclisti e dei loro diritti, che pure vanno tutelati, ma vuole essere la celebrazione di un mezzo estremamente semplice che riesce a rispondere a problemi della contemporaneità particolarmente complessi. Se ci sono più biciclette che circolano in città, abbiamo meno possibilità di essere investiti, queste sono statistiche. La nostra salute migliora evidentemente e poi è anche molto piacevole, diciamocelo. Grazie ad Ercole Gianmarco per essere stato con noi, ci vediamo il 9-10 maggio a Milano allora. Grazie a voi. Essere e avere. Ragioni ferro, quando eri piccolo come me eri un bel bambino. No, ero molto brutto. Mi chiamavano Braccio di Ferro il brutto anatroccolo. No, no, non ci posso credere. Sei così bello tu, Braccio di Ferro. Via, vola via, brutto anatroccolo. Via. Quando io mangio gli spinaci, non c'è brutto che tenga. Focus sui trend. Come stanno cambiando i codici di genere nei consumi all'insegna della neutralità e dell'inclusione della diversità? Nella tendenza core gender è il corpo a diventare protagonista al di là di qualsiasi etichetta. Questo dunque è il tema di oggi, ne parliamo con Valentina Ventrelli di Future Concept Lab. Ciao Valentina, bentrovata. Buongiorno a tutti. Partiamo dalla moda, Valentina, perché è un concetto quello sul quale voi state lavorando che va molto oltre quello di unisex. Assolutamente, il dibattito sulle dinamiche di genere di fatto ha una storia molto lunga e articolata. La sperimentazione sui codici estetici legati all'appartenenza di genere ha sicuramente segnato profondamente la storia recente della moda, che su questo ha costruito senz'altro un capitolo fondamentale in termini di stile ma anche di immaginario. Come dici tu, siamo ben oltre l'unisex e in questa dinamica che sta emergendo il corpo assume un ruolo totalmente nuovo, sempre più legato a una ricerca che esplora nuovi confini tra normalità e diversità. Quindi la moda in questo momento sta lavorando molto più in termini di stili e in questo senso gli esempi sono molteplici. Basti pensare a Alessandro Michele per Gucci, che è salito alla ribalta solo oggi, dopo di fatto oltre 20 anni di carriera in molte aziende, fino in Gucci. Si è trovato improvvisamente a assumere il ruolo centrale, ha preparato inizialmente una sfilata maschile in pochi giorni e questo ha fatto un grande rumore nella moda e nella seconda sfilata, quella femminile, è stato chiaro che il concetto era non proporre due sfilate maschile e femminile, ma il suo concetto di moda, per cui una moda estremamente connotata in termini di stile, ma molto poco in termini di genere. Nulla a che fare con l'unisex, ma di fatto è come se gli abiti di Michele prendessero vita e forma solo in relazione con il corpo che le indossa. Cioè un concetto di nuova neutralità molto connotata in termini di stile, ma non di genere. Un altro esempio molto interessante è la direzione artistica di Jonathan William Anderson per Loewe, un'azienda storica della pelletteria iberica che di fatto oggi sta subendo davvero una svolta. Il lavoro di Anderson di fatto è molto diverso in termini di stile da quello di Michele, però in termini di significato e di relazione col corpo molto simile. Di fatto lui ha lavorato per Loewe in termini di iconicità fluide, nel senso che ha reinterpretato i basic del guardaroba maschile e femminile in maniera molto estrema in termini di stile, no? Ma estremamente fluidi in termini di genere, per cui stili molto diversi ma con un concetto davvero molto simile, come se il corpo oggi parlasse. C'è una grande sottolineatura della libertà, della diversità che si vede anche nella scelta delle modelle contro gli stereotipi. Assolutamente, è questo il concetto è proprio un corpo che rifiuta codici e stereotipi e in questo senso alcuni esempi come dicevi tu, nelle modelle, Chantal Harlow, che è la modella con la vitiligine, che non solo non si è curata, ma fa della sua diversità davvero una bandiera di libertà espressiva. E si vede su moltissime campagne proprio in questo periodo, basta sfogliare una rivista e la troviamo. Esatto, ma perché comunque la diversità diventa una coolness, non è più, come dire, una diversità poco accettata, anzi segna l'unicità, perché poi sappiamo, al di là delle diversità, come dire, così evidenti, il corpo è sempre unico. Allora è qui che si snoda il concetto. Anche il calendario di Sports Illustrated, che per la prima volta utilizza non semplicemente modelle curvy, ma donne vere con le loro forme anche molto evidenti, che rappresentano non un nuovo modello di bellezza. Cioè il punto è che sta cadendo il tema del modello di bellezza, cioè oggi la diversità diventa una, come dire, un bacino di ispirazione straordinario per esprimere la propria libertà espressiva. È bellissimo questo concetto di coolness della diversità che hai appena citato, è un concetto sul quale anche l'arte, l'esperimentazione, la fotografia si sta concentrando, è così? Assolutamente, ma a parte alcuni personaggi, artisti a 360 gradi, basti pensare a Vittoria Modesta, detta anche la donna bionica, una grande artista che ha una protesi alla gamba e che non solo questo diventa un tratto distintivo, ma non le impedisce di, come dire, esprimere il suo corpo e le sue abilità in performance straordinarie. E come dicevi tu, l'arte in generale, che non diventa un occhio morboso sulla diversità, ma è volta a sottolineare la narrazione del corpo. C'è un lavoro bellissimo di un fotografo, citavi la fotografia, Carlos Serrao, che è specializzato, ha lavorato per le più grandi aziende di sport, realizzando campagne, video, in cui alla fine il prodotto è il corpo, nel senso che tutti i prodotti sportivi per i quali lui ha lavorato quasi scompaiono a fronte di un'espressività, di un'abilità del corpo che esprime tutta la poetica, non solo di genere, ecco, per cui corpi che non annullano l'appartenenza di genere, ma che, come dire, la oltrepassano attraverso la performance. E le immagini sono veramente bellissime, rimandiamo come sempre alla nostra pagina Facebook per vederle, per trovare tutti i contributi aggiuntivi. Grazie Valentina, alla Grazie prossima. Grazie a voi, arrivederci. Il consumautore. Questo è lo spazio in cui ci interroghiamo sulle piccole e grandi rivoluzioni in atto nel mondo dei consumi. Lo facciamo come sempre in compagnia del sociologo Francesco Morace. Ciao Francesco. Ciao Maria Luisa, buongiorno a tutti. Il tema di oggi. Il tema di oggi ha come focus il titolo di un bellissimo libro, che tra l'altro è stato scritto da un tuo collega, che è Luca De Biase, e che si chiama Homo Pluralis. Luca nel suo libro propone questa visione finalmente aperta di una soggettività e anche collettività che utilizza le tecnologie, gli avanzamenti anche, devo dire, della comunicazione in modo, direi, versatile. Quindi siamo molto lontani dall'uomo a una dimensione di marcusiana memoria. Insomma, Marcuse negli anni 60, tutta la scuola di Francoforte propose questa idea di una modernità e poi modernità avanzata omologante, in cui la tecnologia ci rende tutti uguali e quindi a una dimensione. In realtà, se osserviamo, ma anche se pensiamo alla nostra vita di tutti i giorni, ci accorgiamo che facciamo molte più cose, le facciamo in modo sempre diversi, e che c'è quindi questa pluralità che dobbiamo imparare a governare. Ecco perché nel dibattito sull'iperconnessione si passa dai tecnoentusiasti ai tecnoscettici. La via di mezzo o la riflessione mediana, per così dire, è difficile da trovare. È difficile da trovare, ma l'indicazione aristotelica che poi la verità sta nel mezzo, io credo che valga sempre. Questo lo dimostrano proprio le, diciamo, donne, il mondo femminile, che è il più attivo attento ad un uso della tecnologia che magari non è entusiastico, ma è molto vicino all'idea di multitasking e quindi di pluralità. Le donne oggi devono gestire il lavoro, la famiglia, la vita sociale, il divertimento e le passioni, e nel farlo sono molto più brave di noi maschietti nell'utilizzare le tecnologie in modo meno invasivo e più intelligente. Ecco, quindi la homo pluralis potrebbe essere forse più una donna plurale. Il tema dell'iperconnessione mi sta molto a cuore, è un tema sul quale mi autocontrollo anche nella vita, perché insomma è un pericolo per molti di noi. A questo proposito leggevo qualche tempo fa la sintesi di uno studio della Southern University of California e descriveva l'età che stiamo vivendo, l'età dell'iperconnessione, come l'età dell'interruzione, l'interruzione costante, perché iniziamo qualcosa e ne iniziamo subito un'altra, interrompiamo la precedente e così via all'infinito. Ecco, è un'analisi che ho trovato molto interessante, affascinante. Sì, è molto corretto, e questo è il grande rischio, diciamo è il dark side di questo fenomeno della pluralità, perché nel fare tante cose inevitabilmente abbiamo magari meno tempo e meno energie di attenzione. Allora, quello che noi dobbiamo insegnare a scuola ai nostri ragazzi è quello di procedere poi in profondità sui loro progetti e di non lasciarsi poi distrarre da altro, ed è un qualcosa che va in qualche modo insegnato e che va imparato, perché è vero che oggi altrimenti gli stimoli sono talmente numerosi che abbiamo un problema di governare poi la qualità delle esperienze. Perché il rischio, veniva detto, è anche quello della sensazione costante di inadeguatezza, dell'incompiuto. Sì, l'incompletezza, l'inadeguatezza, è proprio trovare l'elemento che riesce a bilanciare la quantità di cose che facciamo e la qualità, l'intensità delle nostre esperienze. Questo è il punto chiave, e questo riguarda anche il mondo del consumo, il mondo, se vogliamo, della società, a trovare il giusto punto d'incontro tra la nostra soggettività e poi il bene comune e la socialità. Grazie, a domenica prossima. Grazie a te. E grazie in regia a Filippo Aureggi. Finisce qui anche questa puntata di Essere e Avere, la trovate come sempre sul sito radio24.it, sezione programmi, Essere e Avere, così come sulla nostra pagina Facebook, in attesa di risentirci come sempre domenica prossima alle 15. Non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.